Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Buongiorno e buon anno, cari ascoltatori della Radio 24, e in particolare alla comunità che segue questa fascia oraria di 24 mattino. Avete sentito Giulia Crivelli per la rassegna stampa, e anche questa settimana sentirete solo me qui ad Attenti a noi due, in attesa e mandando un abbraccio augurale anche a Alessandro Mina e ai suoi piccoli, ma nel tentativo di dare un senso, come sempre, a quello che avviene intorno a noi, a volte è molto difficile. Io mi auguro che tutti quanti voi abbiate passato un buon capodanno, compatibilmente con quello che succedeva nel mondo, con le notizie ovviamente tragiche dell'attentato su cui non è ancora chiara matrice, identità e autore, in Turchia a Istanbul. E in questo 2 gennaio vi dico subito che ho fatto una scelta a prescindere, come diceva Totò, avremo solo ospite donne, giornaliste donne e così via, non per pagare un ipocrita tributo maschile all'importanza delle donne, ma perché io continuo a pensare che sia un punto di vista nella nostra professione di giornalisti, come molte altre, se mi perdonate l'inciso, che viene considerato un po' ausiliario e poco protagonista. E invece, siccome sono, come sempre, come in tutti i mestieri ormai, la maggioranza di coloro che lo fanno, mi sono detto che ogni tanto bisogna riequilibrare. Quindi ho detto: diamo questo messaggio il primo dell'anno, vediamo come funziona. Ricordo brevemente i santi del giorno. Oggi sono due dottori della Chiesa, per l'apporto che hanno dato nei primi secoli, nel IV secolo in particolare, all'evoluzione degli strumenti con cui all'epoca la Chiesa ancora nascente combatteva contro l'eresia, l'arianesimo e così via. E quindi San Basilio Magno e San Gregorio Nazianzeno. E stiamo parlando di due, se mi consentite, santi turchi, perché entrambi vengono dalla Cappadocia, entrambi radicano il cristianesimo in quell'area, con un rapporto a metà tra il conflittuale e il no con gli imperatori d'Oriente dell'epoca, Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno. Tra gli altri santi, nomi non troppo diffusi, ma comunque facciamo gli auguri, Airaldo, Bladulfo era un discepolo di Colombano, quindi uno di quei monaci irlandesi che viene a Bobbio qui sull'Appennino piacentino, e dà un grande contributo nel VII secolo a radicare la comunità di Bobbio. E Sant'Elesforo papa dal 125 al 136, e a lui proprio, papa Telesforo, che a molti evoca Gegè Telesforo, ma quello è un cognome, papa Telesforo fu colui che elaborò e decise il rituale liturgico delle notti di Natale, cioè quello che appunto abbiamo alle spalle in questi giorni. Cosa ricordare di tra i tanti eventi avvenuti nella storia in questo 2 gennaio? Io ricordo che il 2 gennaio del 1973 entrò in vigore, era il primo, ma ovviamente il primo giorno feriale, entrò in vigore l'IVA. Che sostituiva l'IGE. L'IGE era un'imposta generale dell'aliquota solo del 4%. L'IVA, l'imposta sul valore aggiunto, quando nacque nel 73, nacque già con un'aliquota del 12%. Sapete che abbiamo aggiunto altri 10 punti all'IVA, e questa è la storia dell'imposta sui consumi. L'imposizione indiretta, regressiva, ma lo Stato, come sapete, ha alzato quella diretta, quella indiretta e quelle patrimoniali, per non sbagliare e per non fare una scelta precisa. Tra gli altri anniversari, vediamo un po', ma che dirvi, nel 1492, tanto per rimanere in tema di grandi scontri tra virgolette tra religione, oggi, proprio oggi, cadeva l'ultima propaggine islamica in Spagna, Granada, e quindi i musulmani che erano arrivati intorno al 710-711 in Spagna, dopo più di 7 secoli perdono l'ultimo emiro che si rifugia in Marocco, ovviamente a mettere la bandierina sulla fine trionfale della Reconquista in Spagna i due coniugi regali, Isabella di Castiglia e Ferdinando II d'Aragona. Ma a questo proposito lasciatemi dire proprio il fatto che non sia chiara la matrice dell'attentato in Turchia al Reina, al locale notturno, uno dei locali notturni più famosi, in cui non è un caso che si sia concentrato un numero molto elevato di vittime straniere, fa capire che in realtà poi chi identifica strumenti come la guerra di civiltà, la guerra di religione e così via, spesso rischia di semplificare scenari che sono molto più complicati di quanto non appaia. Perché? Perché io aderisco in questo, andando a un riepilogo di temi che trovate sui giornali, e ovviamente il tema dell'attentato a Istanbul è quello su cui si prolegano le aperture dei giornali col maggior numero di pagine. Io aderisco a chi propone una lettura su una matrice un po' complicata, per così dire, nel senso che il signor Erdogan, diventato autocrate turco, con i suoi cambi di fronte molto repentini, suscita delle reazioni che ovviamente diventano le più temibili e le più tragiche, nel senso che la scelta della Turchia di Erdogan era stata quella, in buona sostanza, sempre per contenere il punto numero uno, cioè il fatto che non nasca uno stato curdo, quello di non essere duro ma anzi di commerciare, di tenere gli occhi chiusi con ISIS e con gli anti-Assad in Siria, con tutta la costellazione dell'estremismo radicale jihadista, quindi sunnita, e avendo Erdogan cambiato radicalmente fronte, scegliendo invece la Russia e l'Iran, come ovvio concentra su di sé non solo gli attentati tradizionali dell'estremismo curdo, ma soprattutto le reazioni, organizzate o meno, questo lo vedremo una volta che sarà chiaro che cosa è avvenuto al Reina, di tutta quella costellazione di fanatismo jihadista che vede nella voltafaccia della Turchia di Erdogan un atteggiamento da punire. Poi tutto questo c'entra tutto quello che vorrete voi il fatto che la Turchia è nel mirino come parte dell'Europa. Io oramai non la penso più così. La Turchia è un pezzo separato che con gli attacchi contro l'Europa a Berlino come a Parigi, con reti di sostegno anche in Italia, come abbiamo visto nel caso del tunisino ucciso qui poco fuori Milano, ma di cui si indaga ancora con la rete in Italia, è un conto. Quello che avviene in Turchia è parte integrante di quello che avviene oltre il confine siriano, per così dire. Quindi da questo punto di vista aderisco a chi propone questo tipo di interpretazione. E tra le tante cose, insomma, sui giornali segnalo il ottimo lavoro, secondo me, fatto ancora una volta da Marta Ottaviani nelle pagine successive all'apertura della Stampa, e segnalo l'articolo di Stefano Stefanini, l'editoriale della Stampa, il campo minato ai confini dell'Europa. Teniamo questo punto sullo sfondo, io mi limito a richiamarvene alcuni altri che trovate sui giornali. C'è un'appendice che riguarda la svolta, l'unica vera svolta che il governo Gentiloni sembra aver portato fino a questo momento nei diversi temi, non lo dico come matrice politica, ma nei diversi temi. Nei diversi temi, effettivamente, l'avvento di Minniti, del nuovo ministro dell'interno, al posto di Alfano che si è spostato agli esteri, Dio lo benedica, è molto forte, perché si è capito proprio nei due giorni precedenti, l'ultimo dell'anno, che il ministro Minniti è portatore di una svolta vera. La svolta vera è quella di non minimizzare più La rete di possibili rischi rappresentata dal record storico degli sbarchi nel 2016 nel nostro paese, oltre 200.000, A, B, il ritorno all'apertura di una rete fittissima di CIE che erano stati abbandonati, CIE ve lo ricordo sono i centri per l'identificazione e l'espulsione, perché non si può tenere gli occhi chiusi su decine di migliaia di soggetti che non hanno titolo per stare qua, ma che contemporaneamente noi facciamo restare qua nella speranza che vadano altrove, come esattamente è stato il caso del tunisino una volta uscito dai 4 anni di carcere in Italia, che comunque non siamo riusciti a espellere, malgrado la Tunisia sia uno dei 4 paesi, solo 4, con cui abbiamo i protocolli per le espulsioni, è andato in Germania. I tedeschi sapevano che non aveva documenti per stare, eppure gli hanno dato un permesso transitorio, e poi è successo quello che è successo. Quindi Minniti dice: rifacciamo i CIE in tutta Italia, ma li facciamo questa volta radicandoli non dall'alto, ma rendendo i comitati provinciali per la sicurezza e le polizie locali, quindi i sindaci, pilastri di questa nuova strategia. È una strategia molto complicata, secondo me, però c'è chi sulla stampa italiana capisce che è una strada profondamente diversa, che evidentemente con la benedizione anche del Quirinale avviene. Ecco, quindi c'è questo secondo filone collegato all'attentato della Turchia. Ma c'è poi un filone politico sui giornali italiani, perché diciamo, il commento del messaggio del Capo dello Stato ha, per così dire, interpretazioni diverse. Anche in questo caso mi sembra che a cogliere in maniera più tagliente un aspetto dei tanti possibili del discorso d'inizio anno di Mattarella e ancora una volta La Stampa, il quotidiano di Maurizio Marinari, perché La Stampa non ha molti dubbi e fa un titolo che dice, che parla chiaro, dice: l'invito di Mattarella è al bagno di realtà, un bagno di realtà, in parole povere. C'è chi questo bagno di realtà poi lo interpreta in maniera più esplicita. Il fatto, come ovvio, bagno di realtà di Mattarella, cioè il fatto di aver evitato programmaticamente ogni tono di ottimismo retorico, il paese che, insomma, il renzismo non fa parte del bagaglio espressivo di questo Capo dello Stato. Il fatto riduce in una sintesi il messaggio del Capo dello Stato dicendo: il Colle archivia Renzi e sfiducia Poletti. Sfiducia Poletti perché il Colle sul tema dell'occupazione giovanile ha, per così dire, usato toni del tutto diversi dalla frase, diciamo almeno infelice, uscita dalla bocca del ministro Poletti. E anche La Stampa di Molinari in realtà poi è su questa, sia pur in maniera meno esplicita nel titolo, perché sintetizza in un titolo un'interpretazione che dice: il Colle detta l'agenda ai partiti. E qui il problema è, fine di questo accenno politico sui giornali italiani di oggi, come la pensa Renzi? Il Messaggero è forse quello più esplicito nell'indicare, rispetto alla pagina dedicata alle elezioni, e il Messaggero preferisce dire che Mattarella comunque dice che le elezioni sono la strada maestra, tutti gli altri sottolineano invece l'esplicito vigore con cui Mattarella ha detto: guardate, se non l'avete ancora capito vi spiego perché non si poteva andare a votare, e ha sottolineato che tutti i partiti erano d'accordo su questo, tutti, nessuna eccezione, compresa il 5 Stelle secondo quello che ha detto lui, e compresa la Lega secondo quello che ha detto Mattarella, ripeto, ha detto tutti i partiti hanno convenuto sul fatto che non si poteva andare a votare con una legge elettorale che fosse ipermaggioritaria alle tali come la Camera e iperproporzionale al Senato. Ma a fianco di questa interpretazione sulla legge elettorale, che alcuni leggono come un freno a elezioni facili, il Messaggero la legge invece come Mattarella conferma l'indicazione di Renzi. Renzi poi indica in una pagina la roadmap di Renzi, un mese solo per trattare, e la spiegazione dell'articolo di Marco Conti è questa: Renzi non crede affatto che la strada da seguire sia quella di un libero negoziato parlamentare sulle ipotesi di riforma. Io ricordo a tutti che le 3 scadenze di gennaio politiche importanti sono: il 10 gennaio c'è un dibattito su Poletti, ma si è già capito che ha perso c'è un dibattito parlamentare in Senato su Poletti, ma si è capito che, insomma, non dovrebbe riservare sorprese, anche se in Senato i numeri sono risicatissimi. L'11 gennaio invece, primo atto politico importante della Corte Costituzionale, perché la Corte si pronuncia sul referendum della CGIL, i 3 quesiti, articolo 18, voucher e il regime delle competenze tra appaltatori e subappaltatori sui contratti di lavoro, e il 24 gennaio c'è la sentenza sull'Italicum, cioè la legge elettorale. Ecco, l'articolo del Messaggero è il più esplicito oggi nel dire, lo dice Marco Conti, che Renzi è preoccupato sull'ipotesi che a quel punto si incardini un confronto parlamentare, si fa melina, si perde tempo. Quello che è chiaro è che se non si vota molto presto, cioè inizio di maggio, e poi alla fine tra il G7 una cosa e l'altra non si vota più prima dell'estate, e a quel punto si va al 2018. Quindi Renzi dice di aver detto ai suoi ragazzi: il PD deve fare un tavolo in cui io stesso come segretario, ma ci deve essere tutta la segreteria del PD, deve dare tempi precisi agli altri partiti, ci dicano sì o no su poche cose, ma noi dobbiamo poter andare a votare in primavera. E quindi questo Renzi preoccupato è esattamente quello che si legge sul Messaggero. Ora, detti che queste sono più o meno i maggiori temi che trovate sui quotidiani di oggi, naturalmente ci sono molte altre curiosità secondarie e così via, e anche alcune poco felici e alcune curiose. Per esempio, è ovvio che i giornali italiani non hanno capito bene com'è andato il Capodanno a Roma. Non lo hanno capito, perché alcuni erano pronti a sparare a zero dicendo i 5 Stelle hanno impedito la grande manifestazione romana, però nelle immediate successive ore del 2 gennaio non si capisce sui giornali italiani come sia andata davvero l'idea di un Capodanno con più austerità a Roma, tanto per essere chiari. Quello che si è capito è che il bilancio degli incidenti del Capodanno tra coloro che voi, di voi che sparano è meno serio, o almeno i giornali così sembrano riportare, degli anni precedenti, e questo mi pare un bene. Quello che mi preoccupa è che invece i casi di meningite aumentano, ma avete sentito al giornale radio che c'è chi dice non ci preoccupiamo, io tendo invece a preoccuparmi da questo punto di vista. E poi siccome bisogna pur giustificare le foliazioni troppo ampie nei giorni in cui le redazioni sono scomparse, ci sono anche articoli un po' di quelli sulle curiosità, e qui mi fermo, tipo per esempio su Repubblica trovate una pagina intera dedicata ai 52 paesi al mondo in cui è vietata la sculacciata. In Italia si richiama il fatto che dal 1996 la Corte Costituzionale si è espressa contro l'uso di ogni forma di violenza sui bambini. Allora, il problema è se bisogna intendere la violenza da cui derivino lesioni. È ovvio che è così, è perché il codice penale lo impedisce da sempre, no? Allora, cosa diversa è se una sculacciata sia proibita. E vabbè, e allora su questo tema, iniziando da questo tema, però non solo su questo tema, vado con la prima ospite, perché è con noi in questo inizio d'anno, e intanto vi faccio gli auguri, Lia Celi, giornalista, autrice satirica. Come hai passato Capodanno, Lia? Ah, in famiglia sul divano, come l'artigiano della qualità dello spot prima della trasmissione. Ma tu stavi a Roma però? No, io sono nella mia bella Rimini, dove spero. Capodanno è stato bellissimo, a differenza di Roma, cioè diciamo, a detta di tutti è stato pacifico, allegro, lungo. Ma tu che ne pensi di questa cosa? Ma è vero che la sculacciata è proibita per legge? No, che sia vero, che poi, è vero, cioè, c'è questa sentenza della Cassazione, poi in famiglia ognuno temo che si regoli come vuole. Io all'occorrenza ai miei figli qualche sculacciata l'ho data. L'hai adesso data. Purtroppo devo stare attenta perché sono loro a darla a me, visto che sono tutti più alti, più grossi di me, quindi mi tocca obbedire. Io voglio essere curiosito da una cosa, avendo invece figli piccoli, e noi ovviamente aderiamo al protocollo zero, io però guardo retrospettivamente, mia madre con me è stata molto dura, io lì per lì non ho capito, negli anni successivi ho capito. Con i tuoi figli funziona allo stesso modo, oppure hai cambiato l'orizzonte di civiltà, e se qualche volta hai usato qualche punizione continua a non capirla crescendo? No, guarda, io tornassi indietro non, o bisogna darne tante o non bisogna darle affatto, perché se le dai poche volte, loro se lo ricordano e te lo rifacciano per tutta la vita. Cioè, se quelle uniche due volte in cui gliele ho date quando erano piccoli, loro se lo ricordano, pure il fratello più grande se lo ricorda perché era testimone. E se invece fosse stata una cosa continuativa come ai tempi della tua mamma, sarebbe stata una cosa normale, quindi non ci sarebbe stato questo rinfaccio. Ma quelle due volte in cui mi è scappata la sculacciata sono diventati dei casi che ricordano. Quindi la tua idea è codificatevi in partenza o sistematicamente, senza esagerare, cioè facendo loro capire che però oltre una certa soglia c'è anche la punizione, o altrimenti mai, perché comunque altrimenti dopo non capiscono. E comunque la sculacciata è meglio delle cose che andavano ai nostri tempi, quando eravamo piccoli noi, no? La sberla, il ceffone. Come no? Perché la sculacciata comunque diciamo che fa meno male ed è come gesto meno insultante. Lo schiaffo anche nelle nostre, anche per adulti, lo schiaffo ha anche un valore di mortificazione, di umiliazione che ferisce veramente molto profondamente. Questo l'avevo letto me l'aveva detto uno psicologo tanti anni fa, insomma, dovendo il ceffone, ricordate quando ai nostri tempi si diceva ti do il ceffone che ti attacco al muro, era anche il linguaggio era violento, sì, non era soltanto la sculaccia, era una violenza fatta di tanti aspetti tutti poco belli che siamo felici di avere superato. Io però non ho capito una cosa, qui faccio ricorso non all'autrice satirica ma alla giornalista seria, cioè perché adesso, secondo me, il coefficiente di violenza nel rapporto padri-madri coi figli è incomparabilmente diminuito rispetto ai miei tempi, e meno male. Perché la stessa cosa non è avvenuta invece nel rapporto tra uomini e donne? È una bella domanda, guarda, non me lo chiedo, cioè non riesco a darmi una risposta, non so, è talmente un impasto complicato, ambiguo, in cui comunque il gesto di violenza viene mal interpretato come gesto d'amore, poi le donne vengono da una esperienza, un'educazione plurimillenaria alla sottomissione, alla pazienza, alla comprensione, che per scrollarcela di dosso, insomma, ci vuole un lungo esercizio, una lunga pazienza e anche un'accettazione del fatto che per ottenere la vera parità bisogna essere anche sgradevoli, insomma, perché bisogna alzare la voce, bisogna protestare. E però c'è qualcosa che non mi torna, perché i genitori diventano più buoni verso i figli, tranne naturalmente gli ascoltatori dicono guarda, non sbagliate. Perché? Non possono più sfogarsi sulla moglie, cioè sui figli si sfogano sulla moglie, se uno può metterla anche in maniera molto più banale. No, io credo che invece non sia scattata una cosa culturale ancora in quello, io mi sbaglierò, ma la vedo così. No, ma infatti, anche perché sono cose che rimangono tutte molto chiuse nella privacy delle case, no? Quindi molto spesso anche la violenza sui bambini, che può essere in tante forme, anche la privazione dell'affetto, perché il non parlare, il non guardare, il non condividere esperienze assieme può essere una cosa che ferisce molto di più della sculacciata ogni tanto. Quindi penso che un certo tipo di violenza sui bambini si sia ambiguamente trasformata e travestita, diciamo così, mentre la violenza domestica è sempre quella, insomma, il ceffone, l'insulto, l'umiliazione continua. Sì, certo, il progresso culturale da questo punto di vista non c'è stato, ma penso che sia proprio una questione di un lavoro insieme che non si è fatto, mentre i genitori insieme hanno lavorato per riscattare, per uscire insomma dalla dimensione della violenza sui bambini, purtroppo non c'è una uguale solidarietà fra i generi per uscire dalla violenza di genere, insomma. Senti, c'è ti faccio di accuse. Cambio tema, saltabecco, ma è vero secondo te quello che alcuni azzardano, Mattarella piace alle signore italiane? Perché ma sarebbe guarda, io ho guardato il discorso mentre stavo preparando gli antipasti per la cena di Capodanno e ho fatto fatica a pensare che non era l'imitazione di Crozza, perché l'imitazione di Crozza è perfetta, Mattarella si sta crozzizzando, come è successo a Bersani del resto, no? Sai che quando il problema dell'imitazione di Crozza è che sono così perfette che il modello poi si adegua, in qualche modo lusingato da questo omaggio dell'artista diventa uguale al non a se stesso ma al comico. E ho fatto veramente fatica, quindi forse c'è questo aspetto che uno pensa che non è Mattarella, ma è rassicurante secondo te? Rassicurante, devo dirti che è una parola grossa. Ecco, io avrei aggiunto, dopo metà del discorso avrei voluto dire no, guarda, stasera vado a letto, niente festa. Dopo il bagno di realtà, vabbè, ma aspetta il 2 gennaio, non farlo il 31, dai, lasciaci un pochino di tirare. Ma vedi, questo è il punto, perché io lo so che con Lia sembra di star leggeri, ma si tocca. Tu hai toccato il punto, perché la decisione di farlo invece l'ultimo dell'anno, il primo dell'anno, significa da forza, secondo loro, all'interpretazione di coloro che dicono, beh, vedi, per sottolineare che non è affatto un renzista, e altri dicono no, invece è la conferma semplicemente che tende ad avere un registro così basso che la gente si addormenta. Quindi sono due interpretazioni completamente diverse, no? No, Mattarella è quello che mangia il caffè latte, va a letto alle 10 il 31 di dicembre, insomma, non è sicuramente quello che si va a divertire. E Renzisti o non Renzisti, insomma, il 31 dicembre, anche solo per lasciarci alle spalle quell'anno serviva un po' più di elenco, un pochino più. In effetti, però, forse vedere un Mattarella con la lingua di Menelik in bocca, il cappellino in testa, che diceva yeah, adesso divertiamoci, forse sarebbe stato anche più stridente e non avrebbe funzionato. Quindi forse è meglio così piuttosto che un'allegria così, che non è nelle sue corde, insomma. Però io lo sapevo, lì c'è l'intelligente, quindi in realtà non si esporta politicamente, quindi noi non sapremo se lei è per interpretazione del Mattarella antirenzista o del Mattarella semplicemente che quando Renzi poi si schioccherà le dita, ops, scomparirà di nuovo come interlocutore senza potere. Io credo che valga più l'ipotesi A, però magari mi sbaglio. Ma non lo so, io questo bacchiavellismo da parte di Mattarella che mi si mette lì a chiedersi ma dopo sembra più renzista se faccio renzista o se non faccio renzista, il problema è che non è bacchiavellismo, quello non può essere renzista onesta, perché nel DNA è un democristiano siciliano, non può essere renzista, questo è il punto. I renzisti sono un'altra cosa, sono gente che ha messo le dita nella presa, ha preso la scossa e non riesce a levare le dita, e voglio dire dal punto di vista dell'ambitale, non sto dicendo che sono sottoposti a uno shock terapeutico del trattamento sanitario, sto dicendo un'altra cosa. No, quello mai. Allora, intanto buon anno e ci sentiremo spesso al Liaceli. Adesso abbiamo una piccolissima pausa di pubblicità, poco più che simbolica, perché con due altre colleghe andiamo poi a esaminare gli aspetti internazionali, diciamo, più vibranti di questo 2017, che non sarà un anno di tranquillità. 24 mattino, attenti a noi due. Eccoci qua, siamo tornati per una giornata e per una trasmissione ancora pesantemente inficiata dall'inizio d'anno, dall'interpretazione del capo dello Stato, che è l'evento chiave politico dell'inizio d'anno, e naturalmente dalla tragedia che è avvenuta a Reina, a Istanbul, che ci riconduce con il muso a terra, per così dire, come fanno i cani, a tentare di capire la complessità delle tracce e delle ipotesi di lettura di questo evento tragico, che però si incardina in un anno tragico per la Turchia, con più matrici che sono in azione in quel paese per segnare col sangue i motivi di dissenso o di scontro rispetto a un uomo la cui autocrazia e la cui disinvoltura è, secondo me, massima e massimamente sottovalutata dal concerto delle nazioni occidentali, cioè Tayyip Erdogan, che ha cambiato radicalmente fronte negli schieramenti medio orientali. Quindi a questo punto c'è la reazione delle frange jihadiste, sia anti-Assad che ISIS, c'è la matrice curda, c'è un paese muto di fronte alle migliaia cacciate dai posti di lavoro pubblici, epurando forze armate, servizi segreti, scuole, università, servizi diplomatici e così via, centinaia di giornalisti in carcere, insomma un uomo che ne offre per tutte le occasioni. Questo non giustifica il terrorismo, ma rende molto più complicato tentare di dare un'interpretazione. Dall'altra parte poi c'è un 2017 con un'Europa debole, esangue, che si interroga su quel che avverrà, perché parliamoci chiaro, siamo un continente che non ha fatto votare il Regno Unito su Brexit, sono passati 7 mesi e ancora non abbiamo capito se è una barzelletta, una storia seria, cosa si tradurrà in un freno, in un moltiplicatore. Nessuno ci capisce niente. Allora, queste due matrici spiegano perché ho deciso di chiamare in questa trasmissione inizio d'anno due colleghe che stimo tantissimo. Allora, Francesca Paci, giornalista della Stampa, che si occupa di Medio Oriente, non solo, ma soprattutto di Medio Oriente. Grazie di essere con noi, Francesca. Buongiorno, grazie a tutti, buon anno. Cristina Marconi, giornalista freelance da Londra, che scrive per Il Foglio, Il Messaggero. Buongiorno, buon inizio anno anche a Cristina. Buongiorno a tutti. Francesca, ci aiuti a capire dal tuo punto di vista quanto di quello che è avvenuto a Reina è in realtà un simbolo, un crocevia di tutti i maggiori errori di noi come europei, perché io credo che in Siria, lasciando libero campo all'accordo Iran e alla presenza russa sottovalutata all'inizio da una parte, dall'altra non avendo una strategia, non mi pare che noi abbiamo una strategia per il dopo, non tanto per il dopo Assad, ma per l'equilibrio tra le egemonie di potenza nell'area, quella turca di Erdogan, quella russa, quella iraniana sciita, la presenza di Israele e così via. Io ti chiederei di darci una mano per questo, perché sono i temi su cui tu scrivi da anni. Cos'è? Abbiamo deciso di non occuparcene, facciamo solo gli articoli post attentati? Guarda, dal punto di vista se vogliamo guardare dal punto di vista dell'Europa, hai già detto tutto, nel senso che c'è chiaramente una posizione di, non direi neanche di attendismo, ecco, hai detto bene tu, nel senso ci interroghiamo subito dopo. Per capire invece quello che succede sulla regione è bene puntare invece i riflettori sulla Turchia, e sulla Turchia anche il rapporto con l'Europa. Molto brevemente, la Turchia in questi ultimi anni ha cambiato diverse, la Turchia di Erdogan stiamo parlando, ha cambiato diverse, diverse posizioni politiche e geopolitiche, e il rapporto all'Europa è stato quello di un'attesa di potenziale processo di ammissione all'Unione Europea, che è durato quasi 20 anni, e dopo il quale la Turchia ha pensato che invece di essere probabilmente l'ultima della serie A in potenza, poteva provare a diventare la prima della serie B, e si è volta alla regione pensando di poter avere delle chance di controllo della regione, la famosa ambizione neo-ottomana. Tutto questo è andato a naufragare in Siria, perché dopo le primavere arabe nel 2011 la Turchia di Erdogan ha avuto un momento di grande lustro nella regione, perché i fratelli musulmani, che sono quelli dello stesso partito di Erdogan, avevano vinto pressoché dovunque, e poi in particolare l'asse con quelli egiziani, insomma, aveva dato a Erdogan veramente forma alla sua ambizione. Invece le cose poi sono andate diversamente. In Turchia i fratelli musulmani si sono sfilati, in Egitto sono stati spazzati via da Sisi, il Qatar, a cui sono legati i fratelli musulmani anche, è stato marginalizzato. Rimanevano quelli siriani, che erano parte della rivolta cominciata nel 2011, ma erano quelli a cui, insomma, Erdogan si appoggiava molto. Probabilmente ha sperato che lo aiutassero in qualche modo nella sua così mira, che era quella da una parte di rovesciare Assad per poter a quel punto controllare la regione, che poi regione che è a maggioranza sunnita e a maggioranza araba, mentre la Turchia è un paese non arabo, musulmano sunnita ma non arabo. E quando come dicevi tu, l'inattività, l'inefficienza europea soprattutto, ma anche la volontà americana di non intervenire nella regione, che i 18 anni di Obama sono stati tutto un lento disimpegno dalla regione, quando ha visto invece l'intervento massiccio dei russi, la partita si è molto complicata per Erdogan, perché lui, che aveva sostenuto, aveva rapporti diretti con chiaramente i fratelli musulmani in Siria, però la frontiera tra Siria e Turchia, che sono quasi 200 chilometri di frontiera, è stata per almeno 2 anni, fino allo scorso anno, praticamente un terreno porosissimo per il passaggio di foreign fighters che arrivavano dall'Europa, dal Caucaso, dappertutto, e comunque anche per quelli interni che facevano avanti e indietro per rifornirsi di armi. Sono stati moltissimi anche gli scoop fatti da giornali turchi, che infatti pagano il prezzo per il petrolio, infatti, comprato dai pozzi dell'ISIS, controllati dall'ISIS e così via. Esatto, infatti poi sappiamo che in seguito al golpe, in realtà attentato golpe di quest'estate, ma c'è stata la più grande delle epurazioni di giornalisti in Turchia. Dopo il golpe, cioè dopo l'estate, ne sono stati arrestati più di 120 soltanto dopo l'estate. Ecco, quindi a quel punto Erdogan ha avuto chiara la proiezione di come la partita regionale fosse perduta. Perché fosse perduta? Perché con l'intervento dei russi a fianco anche degli iraniani, di fatto in questo momento, non so per quanto durerà, nessuno sa per quanto durerà, però l'attore che vince nella regione è il blocco sciita, il blocco sunnita è quello perdente, e quindi a quel punto Erdogan ha avuto chiara questa proiezione, e quello che ha fatto, quello che è ricorso alle risorse della Turchia, cioè è ricorso al vecchio nazionalismo turco, certo. E per fare questo ha rispolverato il nemico di sempre, che sono i curdi, e su questo è riuscito a ricompattare anche un paese assolutamente spaccato, perché per esempio mi ricordo che quest'estate, dopo il tentativo di golpe, i partiti dell'opposizione, che magari uno si sarebbe voluto aspettare avrebbero colto l'occasione per protestare contro di lui, sono invece stati non dico al suo fianco, no, però dicendo l'attacco al paese è un attacco a tutti noi, quindi è un richiamo che funziona. In quella direzione ha intensificato la guerra che già aveva fatto, non tanto al PKK, al partito dei lavoratori curdi, che ha ripreso le ostilità, gli attentati, certo, nelle periferie estreme del paese, ma anche con il partito dei democratici curdi, sì, l'HDP, che è stato completamente decapitato, i suoi leader sono in carcere, cioè quello che aveva vinto le elezioni e che aveva al suo interno non soltanto curdi ma anche donne, anche... Esattamente questo, secondo me, Francesca, l'errore storico, a mio modestissimo giudizio, politico dell'Europa, cioè non aver capito che bisognava spiegare con durezza prima del luglio scorso a Erdogan che il rapporto politico, l'importanza istituzionale che quel partito agli occhi dell'Europa per consentire di credere a una non finzione ma a un minimo di realtà di sistema democratico turco era fondamentale. Avergli consentito la mano libera anche verso le espressioni dell'opposizione di quel partito che era stato vittorioso praticamente, cioè aveva cambiato il corso che sembrava obbligato rispetto all'ascesa di Erdogan, il cambio della Costituzione, il fatto di aver vinto le elezioni per poi avere mano libera a cambiare la Costituzione. Questo per me è stato la prova che l'Europa non c'aveva più la testa per occuparsi di questa cosa. E su questo ci sono solo due piccole cose, piccole enormi da aggiungere. La prima è che a quel punto l'Europa non solo non aveva fatto nulla né nei confronti di Erdogan né nei confronti di quello che stava accadendo in Siria, ma ha fatto peggio, perché un anno fa, per paura degli migranti, abbiamo siglato un accordo con la Turchia che di fatto appalta il controllo delle frontiere esterne alla Turchia, e quindi ci mette in qualche modo in una condizione di essere, tra virgolette, ricattati. Come lui, cioè, si è visto, Erdogan è dispostissimo a tiene i migranti di cui noi abbiamo tanta paura, esatto, di cui abbiamo dato prova di dare tanta paura, e quindi ci fa questa, questo servizio. E dall'altra, quello che qualche giorno fa in un'intervista mi ricordava Gilles Kepel, l'orientalista francese, è che adesso, essendo Erdogan passato dall'altra parte, quindi essendosi di fatto, avendo cominciato ad accordarsi con il fronte vincente, ossia con il fronte sciita, espone il paese a, uno, le ritorsioni dello Stato islamico, e non dico direttamente solo dello Stato islamico, ma di tutti i gruppi, esatto, che ruotano attorno, gruppi vari jihadisti che si erano visti a lungo in qualche modo, se non protetti, però diciamo spalleggiati in qualche modo dalla Turchia. E l'altra grande cosa che dice Kepel è che finora i turchi, i giovani turchi, erano stati abbastanza lontano dal jihad, cioè è stato un fenomeno finora questo jihad, soprattutto di terza generazione, mentre così si radicalizzano arabo, come espressione di anti-erdoganismo, che è il colmo per l'Europa, che è il esatto, perché colmo dentro al blocco di Erdogan, quello tradizionale conservatore, a quello del suo partito, c'è molta insoddisfazione e molta amarezza per questo avvicinamento. Allora, alla Russia, al blocco. Io ringrazio veramente Francesca Paci perché ci ha dato, insomma, delle coordinate molto importanti per capire come la Turchia è un po' il simbolo, oltre che dei guai loro, ma delle contraddizioni nostre, perché capite che il dire no all'espressione di una forte autonomia, di uno Stato curdo democratico, farlo coincidere con il no di Putin ai fenomeni caucasici di estremismo musulmano, ce ne vuole per l'Europa. Eppure ci siamo riusciti in questo 2016 alle nostre spalle, e il prezzo sarà molto amaro, non solo per il sangue del Reina e di tutti gli attentati in Turchia e in Europa, ma vedrete che la faccenda dei nuovi equilibri in Medio Oriente sarà molto molto molto complicata. Oltretutto, punto interrogativo, noi non sappiamo come la pensi Trump su questo. Davvero, abbiamo capito che vuole negoziati diretti di potenza, come commerciale e militare con la Russia e con la Cina e non vuole cose multilaterali, non crede alla NATO, non crede ai trattati multilaterali commerciali, su questo secondo me ha molto più ragione che torto, ma sul Medio Oriente non abbiamo ancora capito. Ma e allora però, nel ringraziare Francesca Paci, guardiamo in questo 2017 a un altro bel punto interrogativo delle debolezze nostre però, perché guardate che Brexit è veramente un altro coacervo di problemi. In un'Europa in cui si voterà in Olanda, in Francia, poi alla fine in Germania, in Italia punto interrogativo, non lo so, però intanto in Olanda, in Francia e in Germania, e soprattutto in Olanda e in Francia, il punto di come verrà presa la Brexit e se farà vincere o no le forze nazionaliste in Olanda, Geert Wilders, in Francia ovviamente Le Pen alle presidenziali, questo è un punto per rispondere al quale bisognerebbe aver capito ma la Brexit che cacchio sia, perché io fino a questo momento non l'ho capito. Cristina Marconi, come hai passato il Capodanno? Bene? Bene, bene, bene. Sì, tutto rosso, bianco e blu come la Brexit, no? Ma no, ma io sono preoccupato per la regina, però, rassicurami. Sì. Ma guarda, c'è un brutto raffreddore, ce l'ho avuto pure io, mi è durato 5 settimane. Vabbè, quindi ma che c'entra? No, tu mica sei la regina, adesso non ti montare la testa. La regina no, è la regina. Capito, ma il raffreddore è raffreddore, quindi ma ieri se n'è stata a casa. Ma ci stai dando una notizia, è davvero un raffreddore? Ah, ma secondo me sì. Ah, sì, okay. Sì, se è quello che ho avuto io, povera regina, guarda. Ah, vabbè. No. Oh, incredibile, tu parli di una monarca, una donna, e la donna ti risponde parlando di sé, non si può mai sbagliare su questo. No, detto questo, al di là della battuta, ma lì i giornali, io ho visto addirittura che i sostenitori, alcuni sostenitori del Brexit, hanno scritto una lettera ai negoziatori europei dicendo vabbè ma dai mettiamoci d'accordo, mi sono rifiutato di credere che fosse vero e non un gossip natalizio, invece ho capito che è così, però qual è il calendario possibile e che termini avrà sto Brexit, si capisce? Allora, no, non si capisce. Noi quello che sappiamo è che adesso ci sarà a gennaio la sentenza della Corte Suprema, che a questo punto è irrilevante perché è quella che deve decidere se il Parlamento voterà sull'articolo 50, quindi sull'inizio dei negoziati ufficiali con Bruxelles. Però Theresa May ormai ha scontato il fatto che questa sentenza probabilmente non sarà favorevole e quindi si voterà comunque in Parlamento. In Parlamento. Cioè, esiste davvero l'ipotesi che si bauti a mare l'esito referendario popolare? Ma no, perché già hanno votato il mese scorso su questo, esatto. Quindi lei è stata molto astuta perché ha costretto i deputati a dire se erano d'accordo di far partire i negoziati a marzo, quindi loro hanno ovviamente votato maggioranza di essere d'accordo perché non possono comunque rovesciare il voto popolare e si è messa un po' dalla sua parte il Parlamento. Ok, quindi sorprese non ce ne saranno sul voto in Parlamento, però in concreto a marzo cosa succede? Esatto, questo non si sa perché lei dice di voler tenere il più possibile i negoziati segreti per una questione strategica e anche perché probabilmente non ha molta idea. Nel suo discorso di inizio anno ha detto che la Brexit verrà negoziata in maniera da tener conto anche delle esigenze di chi voleva restare. Io l'ho sentita, giuro, non ho capito cosa voglia dire. Perché... Ma lei sta dicendo belle parole in aria, obiettivamente è difficile capire di che cosa... Non è possibile uscire credendo di ottenere le stesse condizioni di un paese che resta dentro, perché io questo capisco dalla May e lo capisco perché c'è la business community che preme, però è impossibile, non so come dire. Quindi... No, è assolutamente impossibile, ma lei sta facendo leva sull'aspetto che la protegge, se vuoi, dal populismo più estremo, che è questo anglocentrismo, no? Quindi quest'idea che Londra comunque è il partner negoziale più importante e che la ragione siede a Londra. E lei su questa cosa sta insistendo in continuazione. Dall'altra parte, io come già ti avevo detto varie volte in trasmissione, un po' la capisco perché comunque avendo alle calcagna comunque è la prima leader europea ad avere a che fare col populismo e con un risultato elettorale concreto del populismo, perché quello che è successo ovviamente è enorme. E per rispondere a quello che dicevi prima, Oscar, sì, il problema è sempre stato che i Brexiter la fanno molto facile, mentre i civil servants, chi ha a che fare con il dossier nella pratica, si mette le mani nei capelli. Un po' più realisti, sì. Sì, perché non ci sono le capacità, non ci sono le persone per negoziare e soprattutto la pubblica opinione non ha assolutamente idea di quanto complessa e articolata sia la la matassa. Ma, ma dovessi dire, queste sono le classiche domande scorrette, politicamente scorrette, perché io ti sto chiedendo delle impressioni, un giornalista non dovrebbe andare per impressioni, però per capire, dare un messaggio a chi è a casa. Ma la May, quindi, chi vuole separarsi ma senza fare neanche troppi sfasci, però vuole separarsi perché lei non può che tenere questa posizione, spera che in Olanda e in Francia vincano i lepenisti oppure no? Secondo me potrebbe, allora no, qui siamo proprio nel vicino all'impressione. Secondo me lei chiaramente ha tutti i vantaggi a mostrarsi come la moderata di turno, come, sì, anche tutto sommato come la soluzione, come dicevo prima, tutte queste spinte, perché lei insomma, questa situazione l'ha guardata in faccia e bene o male, anche con toni a sua volta un po' populistici, però finora la sta domando. Il problema è che nel 2017, scusa, io ho un po' di eco, quindi ogni tanto ho qualche 2017. difficoltà. Nel 2017 la Brexit non ci sarà ancora, nel senso che avremo iniziato i negoziati, ma per adesso noi stiamo valutando. Abbiamo intanto acquisito un punto. Nel 2017, cari ascoltatori, io sottoscrivo perché anch'io penso che sia così, visti i tempi tecnici, una volta che si attiva l'articolo 50, che ancora non sappiamo quando, come e se, forse a marzo, forse ad aprile, boh, ma intanto nel 2017 la Brexit non c'è, chiaro questo? Non c'è. E quindi, siccome non c'è, alla signora Theresa May, a seconda di chi vinca in Europa e quanto populismo vinca in Europa, cioè populismo, quanto nazionalismo, come devo dire, quanta gente che vuole i dazi, non vuole più l'euro, vuole le politiche dell'immigrazione nazionalizzata e così via, questi sono i tre pilastri, a seconda di come va in Europa, la May sarà in condizione nel frattempo di portare a casa tutto quello che c'è per un'unione piena e di vedere nel tempo come si modifica l'ipotesi di un'uscita in che termini. Scusate, cari ascoltatori, chiamateli fessi britannici. A me sembra che abbiano fatto una scelta. Nel merito non ero d'accordo, ma mica stupida, non ti pare, Cristina? Lei è astuta, lei è brava. Secondo me, alla fine, finora la sta giocando. Allora, bene, la sintesi è che questo continente ha due veri grandi leader: una è Angela Merkel e un'altra è l'astuta volpe Theresa May. Cari maschi, mi dispiace, ma io ho iniziato l'anno così. Grazie a Francesca Pace, Cristina Marconi e Lia Celi. Domani ricominciamo le trasmissioni più tra virgolette politiche. Peter Bescapè mi ha guardato per tutta quest'ora e mi era molto perplessa, dicendo: ma che stai a dire? E lo so, è un inizio d'anno un po' diverso. Intanto, auguri a tutti.